Bene, allora io voglio iniziare subito questa mattina leggendovi una storia che un po' va ad introdurre la tematica, il tema di cui parleremo. Questa è la storia di Thomas Edison. Per chi non ha proprio presente bene di chi stiamo parlando, Edison è l'inventore delle valvole termoioniche. Ora, dopo questo messaggio potete chiedermi degli approfondimenti su qualunque punto, tranne che su questo, perché onestamente non ho idea di che cosa siano queste valvole. Però ho capito che Edison era veramente intelligente per fare questa invenzione, insomma aveva una grande intelligenza sicuramente. La storia è questa. Si racconta che un giorno, da piccolo, Thomas Edison tornò a casa da scuola e consegnò un foglio alla madre. Disse: «Mamma, la maestra mi ha dato questo foglio e mi ha detto che lo devi leggere solo tu. Ma che cosa c'è scritto?» Gli occhi della donna si riempirono di lacrime mentre leggeva la lettera ad alta voce al figlio. «Suo figlio è un genio. Questa scuola è troppo piccola per lui e non ci sono insegnanti abbastanza bravi per formarlo. Quindi, per favore, lo tenga a casa e sia lei la sua insegnante». Che bella lettera, eh? Che belle parole. E queste sono state le parole che hanno incoraggiato, hanno spronato Edison a diventare poi, diversi anni dopo, il genio, l'inventore che tutti quanti conosciamo. Sapete, le parole che noi riceviamo, ma anche che noi diamo agli altri, sono potenti. Con le nostre parole noi possiamo incoraggiare o demolire. Con le nostre parole noi possiamo spronare chi ci circonda o noi stessi a diventare migliori, ad impegnarci, a raggiungere i nostri obiettivi, oppure possiamo tarpare le ali di chi ci circonda. Con le nostre parole noi possiamo fondamentalmente dare vita, parlare vita, oppure parlare morte. Tutti quanti noi sappiamo questo, non vi sto dicendo nulla di nuovo. Perché? Perché tutti quanti noi siamo stati, da una parte, i destinatari di entrambi i tipi di parole, ma dall'altra parte, ahimè, siamo stati anche gli emittenti di entrambi i tipi di parole. E quindi io questa mattina voglio parlarvi. Voglio dimostrare attraverso la Bibbia che essere più simili a Gesù, che il nostro come te, passa anche dalle parole che noi pronunciamo. Molto pratico. Il nostro come te, essere simili a Gesù. Mamma mia, da dove devo incominciare? Da quello che diciamo. Da come lo diciamo e da quanto scegliamo di dire. Molto pratico. Le parole sono potenti. Dio ha creato il mondo con la potenza della sua parola. Quando io vado in Genesi 1, non leggo che Dio ha schioccato le dita, non leggo che Dio ha usato le sue mani per plasmare i pianeti e l'universo. No, io in Genesi 1:3 leggo che Dio disse: che luce fu, che luce sia, e la luce fu. In Giovanni 1, Gesù ci è presentato come? Come la parola che si fece carne, una parola di grazia, una parola di verità, quella parola che ha portato luce nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vediamo in Genesi Dio che dice luce e luce fu. In Giovanni che Gesù stesso porta la luce nelle tenebre. Noi siamo stati creati a immagine e somiglianza del nostro Dio. E quindi le nostre parole hanno potenza. Certamente noi non possiamo con la nostra parola creare delle realtà concrete. No, no. Se vai in una stanza buia e dici che luce sia, rimane buia. Ok? Devi spingere l'interruttore affinché la luce sia. Se non studi, ti puoi ripetere fino a domani. Sono bravo, sono bravo, sono bravo. Andrò bene, andrò bene, andrò bene. Avrai un 2. Con le nostre parole difficilmente possiamo creare realtà concrete, ma possiamo creare realtà emotive. Possiamo incoraggiare amore o fomentare odio. Possiamo creare realtà psicologiche. Possiamo incoraggiare pensieri buoni, positivi, oppure pensieri di distruzione. Possiamo creare realtà relazionali. Una parola può portare pace. Una parola può distruggere un matrimonio, un'amicizia, un rapporto madre-figlia. Sapete, noi stessi siamo il risultato delle parole che abbiamo potuto ricevere. Alcuni di noi sono dei lavoratori eccellenti, degli studenti bravi che si impegnano, dei padri, delle madri che vivono la propria genitorialità in una maniera bella, pacifica, buona. Perché? Perché qualcuno ha visto una capacità in noi, ha visto un talento in noi, ha scelto di incoraggiarci in quello che ci siamo trovati a fare. E questo ci ha portato, ci ha incoraggiato ad essere dei lavoratori, delle mamme, dei papà, degli studenti buoni. Altri di noi magari vivono invece nella costante preoccupazione, nella costante paura, nel costante timore di non farcela, con questo senso di inferiorità. Perché? Perché qualcuno ha detto quella parola, perché mamma o papà ha fatto quel commento, perché la maestra ha fatto quel paragone. E anni dopo, tanti anni dopo, ci ritroviamo a vivere le conseguenze di quel commento, quell'aggettivo, quel paragone. Se io vi dovessi chiedere quando è stata la prima volta che qualcuno ti ha fatto sentire elogiato, o quando è stata quella volta, la prima volta che qualcuno ti ha fatto sentire insufficiente, non abbastanza, sicuramente la nostra mente risalirà a ricorderà quell'evento, e quell'evento sarà collegato a delle parole. Non è vero? È allora che Proverbi 18:21 si dimostra, come tutta la Bibbia, essere vero, essere concreto, essere vita. Perché che cosa dice? Dice: morte e vita sono in potere della lingua. Allora io mi chiedo, ma ci crediamo davvero? Cioè, quando leggiamo questa frase, la prendiamo come un'esagerazione? Cioè, vabbè, mo addirittura. Un'iperbole, una figura retorica. Ci crediamo davvero? Sapete, in media, gli studiosi affermano che noi, e questa è una media fatta tra uomini e donne, perché in realtà il dislivello del numero di parole tra quelli che dicono gli uomini e quelli che dicono le donne è enorme, enorme. Quindi in media, sommariamente, noi pronunciamo circa 16.000 parole al giorno, che equivalgono più o meno a un libro di 60 pagine. Qualcuno di noi non ha mai letto un libro di 60 pagine, eppure noi lo diciamo ogni giorno. Sono tante, tante parole. In Efesini 4:29 Paolo ci incoraggia in questa maniera e dice: nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che l'ascoltano. Io credo che se filtrassimo tutto quello che diciamo con questo filtro, in altre parole, se ci chiedessimo di quello che dico, quante parole sono buone? Quante parole conferiscono grazia? Quante parole edificano, incoraggiano? Io credo che quelle 16.000 parole diventerebbero un attimino di meno, perché presteremmo un attimino più attenzione a quello che diciamo. Prima di aprire la bocca ci penseremmo forse una o due volte in più. O prima di aprire la bocca il nostro spirito pregherebbe in modo tale da essere guidato nel conferire parole buone che siano per l'edificazione e che conferiscano grazia. Non è vero? No, nessuno, cioè io non voglio che questo messaggio sia preso come un'accusa, perché mi conoscete. Io di queste 16.000 parole le dico in un'ora, non in un giorno, per cui io diciamo sono la prima che deve tenere presente di questo filtro. E Giacomo, nella parola di libro di Giacomo, proprio ci istruisce, ma proprio per bene, a pesare le parole che noi diciamo. E il fratello proprio di Gesù, Giacomo, descrive in modo molto molto accurato la potenza della lingua, sottolineando come un membro così piccolo possa, dirà, vantarsi di grandi cose. E paragona la lingua a diverse immagini e con voi voglio vederle una alla volta, velocemente, perché abbiamo detto non dobbiamo spendere troppe parole inutilmente, velocemente, però le vedremo con accuratezza. Vi va? Pensate che possiamo imparare qualcosa? Il nostro essere come Gesù, simili a Gesù, passa attraverso le parole che proferiamo. E quindi leggiamo Giacomo 3 dal versetto 3. Ecco, noi, e prima di questo Giacomo dice: non siate in tanti a fare gli insegnanti, perché gli insegnanti avranno un giudizio più severo da parte di Dio. E gli insegnanti che cosa usano per fare il proprio lavoro? La lingua, giusto per darvi un po' di contesto. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da venti forti, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma che si vanta di grandi cose. Il piccolo morso guida il grande cavallo. Il piccolo timone guida, direziona la grande nave. Così la piccola lingua condiziona tutto il nostro corpo. Le parole, un insieme di lettere, possono direzionare i nostri pensieri, la nostra attitudine, le nostre relazioni, Una parola può condizionare la nostra intera esistenza, l'abbiamo detto prima. Quindi la prima domanda che io voglio porci è: che cosa diciamo di noi stessi? Perché se le parole possono condizionare la mia intera esistenza prima di quella degli altri, che cosa diciamo di noi stessi? Quali sono le parole che ci dedichiamo? Sono parole forse di sconfitta? Sono parole di paragone? Sono parole di ormai non si può fare nulla? Ormai ho sbagliato? Sono parole che ci identificano negli errori che abbiamo fatto o nelle mancanze che sono state sottolineate. Come ci parliamo? Che cosa ci diciamo? Le parole che ci dedichiamo descrivono l'immagine e somiglianza di a Dio in base alla quale siamo stati creati, oppure si distanziano da quell'immagine e somiglianza? Cosa ci diciamo? Andiamo avanti. Il verso continua. E quindi la prima immagine è quella del morso nella bocca del cavallo, la seconda immagine è quella del timone, la terza immagine, quella del fuoco. E dice: considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita. Attenzione qui, ed è infiammata dalla Geenna. Questa Geenna? Ve lo spiego. Molto semplicemente, dire che la lingua è infiammata dalla Geenna, letteralmente che corrisponde alle fiamme dell'inferno, è affermare che le nostre parole possono essere influenzate e guidate dal diavolo. Quando diciamo delle cose buone, che edificano, che conferiscono grazia, chi guida le nostre parole? Gesù. Dall'altra parte, quando noi diciamo delle parole che non sono conformi alla volontà di Dio, le nostre parole sono guidate dal diavolo. E questa non è un'iperbole, questa non è un'esagerazione. Chiediamoci, fermiamoci un attimo e analizziamoci. Quando scriviamo su Facebook il commento, lo status, e scriviamo prima di pensare, scriviamo quel commento che è una scintilla e che poi causa una lite, una discussione, un incendio. Chi è che sta guidando le nostre parole scritte in quel caso? Quando esprimiamo la nostra opinione e ci facciamo maestri, ci facciamo insegnanti su delle questioni di cui non sappiamo nei dettagli, non sappiamo il contesto, ma dobbiamo dire la nostra, dobbiamo dire la nostra opinione, dobbiamo parlare, magari il nostro parlare non è per la guarigione, non è per la pace, ma fomenta ancora di più quella che è già una situazione disastrosa. Chi è che sta guidando le nostre parole in quel momento? Quando parliamo con i nostri figli, con il nostro figlio che non vuole fare i compiti, o con nostro figlio che ci disubbidisce, o con nostro figlio che non rispecchia e soddisfa le nostre aspirazioni, che cosa esce dalla nostra bocca? Chi sta guidando in quel momento la nostra lingua? Oh, ma sei stupido. Oh, ma non capisci niente. Muoviti, veloce. Gli altri sono più bravi. Ma sei deficiente. Chi sta guidando la nostra lingua in quell'esatto momento? Io ho fatto la maestra per diversi anni e non mi scorderò mai questo bambino, sempre Francesco Pio, vi parlo sempre di lui. Questo bambino aveva 7 anni, seconda elementare. Francesco, e perché non hai fatto i compiti? Mamma ha detto che io non sono capace e non ci ho provato. Chi sta guidando la nostra lingua in quei momenti quotidiani? Quando parliamo ai nostri mariti, o ancora peggio, dei nostri mariti, e viceversa, alle nostre mogli o delle nostre mogli, chi guida la nostra lingua in quel momento? Sono parole di grazia o parole di lamentela? Sono parole di gratitudine o parole di insoddisfazione? Giacomo continua, come se non bastasse. Cioè io qui sono arrivato e ho detto, beh, mo basta. E invece no, ci sono diversi altri versetti. Giacomo continua descrivendo la lingua oltre che come un timone, oltre che come la briglia, oltre che come un fuoco. Dice che la Bibbia, che scusate, che la lingua, le parole sono incoerenti. Versetto 9. Con essa, con la lingua, benediciamo il Signore, benediciamo il Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. E poi amo questa conclusione. Dice, fratelli miei, e sentite tutto l'amore? In questo fratelli miei, lo sentite? Fratelli miei, non deve essere così. Fratelli miei, così non va. Perché, riflettete con me, quanto è facile che dalla nostra bocca escano parole di critica o di gossip. Oh, hai sentito quella? Ti voglio chiedere di pregare per questa situazione, perché tu non lo sai quello che è successo. Nel nostro gruppo in casa, al bar, con le nostre colleghe, con le nostre amiche. Quanto è facile che dalla nostra bocca escano parole di gossip, di critica, perché noi non è che malediciamo, no, dai, non esageriamo, però critichiamo. E poi dalla stessa bocca escano parole di preghiera, di lode, di adorazione verso Dio. Quanto è interessante quando stiamo venendo in chiesa. E questo io sono colpevole. Stiamo venendo in chiesa e nella macchina scoppia la lite con il proprio marito. Proprio 5 minuti prima di venire in chiesa. E tu magari devi condurre la lode o devi predicare. E in quella lite hai detto cose prima di pensare. Hai detto cose che se ti fossi fermata e avessi pregato e avessi chiesto allo Spirito Santo autocontrollo, non avresti detto. E poi varchi la soglia della chiesa. Signore, sei buono, Signore, ti adoriamo, Signore, voglio fare la tua volontà, eccetera, eccetera. Dalla stessa lingua. Ora, che noi litighiamo con i nostri mariti è normale. Quanti dicono amen a questo? Amen. È normale, è normalissimo, però dobbiamo imparare a litigare bene. E quella lite non deve essere l'occasione per prenderle da dietro le cose e dirle tutte insieme con rabbia. Ma deve essere un'occasione di scontro e confronto, ma guidato sempre dallo Spirito Santo. Per più informazioni andate da Enza Marinelli. Quanto è triste che la domenica adoriamo Dio e il lunedì al lavoro il nostro linguaggio diventa un attimino più colorito. Qualche parolaccia in più. Qualche parola a sproposito in più. Dalla stessa lingua, fratelli miei, non deve essere così. Come ha detto Giacomo, così non va. Perché noi non possiamo separare la nostra relazione con Dio dalla relazione che noi abbiamo gli uni con gli altri. Non sono due cose a sé stanti. La nostra relazione con Dio deve influenzare e condizionare la relazione che abbiamo gli uni con gli altri. E questo condizionamento passa da quello che noi diciamo, si traduce in come noi ci parliamo, in quello che ci diciamo e in quello che scegliamo di non dire. Le nostre parole rivelano quello che noi veramente pensiamo di Dio. Perché se noi consideriamo Dio un accessorio nella nostra vita, allora molto probabilmente la domenica diremo un qualcosa e il lunedì ne diremo un'altra. E la nostra lingua sarà divisa, perché Dio è il Dio della domenica. Se noi consideriamo Dio solo quando abbiamo bisogno, allora quando non abbiamo, semmai non avessimo bisogno di Lui, però quando pensiamo di non aver bisogno, allora la nostra parola, la nostra lingua rifletterà quello che è la nostra visione di Dio. Le nostre parole, in altri termini, rivelano quello che c'è nel nostro cuore. Quindi la domanda diventa un attimino diversa. Non è che cosa diciamo, che cosa esce dalla nostra lingua, ma la domanda è che cosa sta nel nostro cuore che ci porta a dire determinate cose. Ed è un po' più profondo. Nel versetto 11, Giacomo lo dice così: la sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? La sorgente qui è il nostro cuore. Quindi il nostro cuore è possibile che possa poi portarci a dire parole dolci e parole amare? Può forse, fratelli miei, sentite l'amore qui? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Pensiamo a quando eravamo bambini. Quando andavamo dal medico, il medico voleva fare un check-up della nostra salute, cosa ci chiedeva? Esci fuori la lingua. E quindi con questo stecchino spingeva giù la lingua per vedere un po' tutto quello che... Cioè io non ho mai capito che cosa vedeva. Però ho capito che nel vedere, nell'osservare quello che c'era nella nostra bocca, lui capiva se il nostro organismo funzionava bene o meno. Giusto, Zionino? Più o meno? Ok. Cioè quello che vedeva nella bocca era l'indice della salute dell'intero organismo. Quello che esce dalla nostra bocca indica la nostra salute spirituale. Quello che esce dalla nostra bocca indica la salute del nostro cuore. Allora la domanda è: perché diciamo quello che diciamo? Che cosa sta nel nostro cuore? Forse sono delle ferite? Forse l'orgoglio? Forse è un'insoddisfazione, una frustrazione. Che cosa nel nostro cuore ci porta a usare la nostra bocca in una maniera che provoca morte? Nel verso 7 dice: ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare. Ed è stata domata dalla razza umana. Vi ricordate quando Dio ha detto all'uomo: dai il nome agli animali, hai il dominio su tutta la creazione? E poi l'uomo ha avuto il dominio. Non lo so come ha fatto a dominare i dinosauri, però ha avuto, in qualche modo l'ha fatto. Eppure, ma la lingua, nessun uomo la può domare, perché è un male continuo, è pieno di veleno. Io da questo capisco che, essendo una questione di cuore, come abbiamo detto, affinché il nostro parlare possa cambiare, possa compiacere a Dio, possa riflettere il come te, le buone intenzioni non bastano. Gli sforzi umani arrivano fino a un certo punto, ma non sono sufficienti. Non basta la buona volontà, ci vuole un intervento divino. Perché qui lo dice: nessun uomo è mai stato capace di domare la propria lingua, e noi lo sappiamo. Quante volte diciamo la cosa e poi ci diciamo da capo: ma non mi potevo stare zitta, ho sbagliato da capo. Perché noi lo sappiamo e vogliamo fare bene, vogliamo parlare bene, vogliamo essere come simili a Gesù veramente. Però quanti hanno sperimentato la difficoltà nel domare questo piccolo pezzetto di carne che abbiamo nella bocca? Ci vuole un intervento divino. E quindi voglio concludere con questo. Abbiamo detto fino ad ora quello che le parole non dovrebbero dire. E invece voglio chiederci come le nostre parole dovrebbero essere. E ho pensato a tre parole che incominciano con la R. Questo ve lo dico perché è frutto di tanto, diciamo, ricerca. Sinonimi e contrari a go-go. Però così ci può rimanere in mente, impresso. Giusto, Vito, mi insegni bene? Come devono essere le nostre parole? Le tre R. Parole di ravvedimento. Parole che riflettono Cristo. E parole ripiene di Spirito Santo. Che le nostre parole, alla luce di quanto abbiamo capito oggi dalla Bibbia, dal nostro amico Giacomo, possano essere parole di ravvedimento. Noi possiamo e dobbiamo ravvederci e chiedere perdono per tutte le parole fuori posto che abbiamo detto, per tutte le parole che sappiamo aver ferito chi ci circonda, per le parole poco guidate, poco buone, che certamente non conferivano grazia, che abbiamo detto ai nostri mariti, ai nostri colleghi, alla nostra amica, ai nostri genitori. Possiamo chiedere scusa a Dio innanzitutto e poi anche a chi è stato il destinatario di queste parole poco guidate. Le nostre parole devono riflettere Cristo. E quindi come parlava Gesù? Sapete, Gesù a 12 anni lo vediamo nel Tempio che insegnava. E tutti erano stupiti perché le sue parole erano sagge. Dopo che si è battezzato, Gesù è stato tentato dal diavolo, e a ogni tentazione Gesù ha risposto con parole che erano autoritarie, con la parola di Dio, parole sagge. Parole di autorità. Davanti all'indemoniato, nei Vangeli, Gesù ha proferito parole di libertà. Nel bel mezzo della tempesta, quando Gesù era nella barca e dormiva, contro le parole di panico e anche d'accusa dei discepoli, Gesù ha avuto parole di pace e si fece gran bonaccia. Per tutti gli stolti, i ciechi, la donna dal flusso di sangue, Gesù ha avuto parole di guarigione. Per Lazzaro, il suo amico, morto da 3 giorni, Gesù ha avuto parole di vita. Per la donna colta in adulterio, giudicata da tutti, destinataria di parole bruttissime, che l'hanno ferita, che l'hanno umiliata, che avevano conferito morte sulla sua vita, Gesù ha avuto parole di amore che conferivano una seconda possibilità. Nel Getsemani, poche ore prima di morire, vediamo Gesù che suda sangue, preso da paura, e Gesù fa questa preghiera: Padre, se puoi, allontana da me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Gesù ha avuto parole di ubbidienza, di umiltà, di sottomissione. Pochi istanti prima di morire, sulla croce, Gesù ha detto: Padre, perdona loro, perdonali. Gesù ha avuto parole di perdono. E poi qualche istante prima di spirare, Gesù ha detto: tutto, tutto è compiuto. Gesù ha avuto parole di salvezza, di riconciliazione, di riscatto. Anche noi possiamo usare le nostre parole per elargire amore, per condividere saggezza, per dare pace, per conferire libertà. Noi possiamo usare la nostra bocca per dare una seconda possibilità, per affermare chi ci sta davanti, per perdonare, per dare guarigione dell'anima, dei pensieri, per dare vita. Anche noi possiamo usare la nostra bocca per professare le verità di Dio, piuttosto che articolare così bene i nostri pensieri. Articoliamo bene i pensieri di Dio usando la sua parola, condividendo versetti, parafrasando storie. Usiamo parole la cui fonte è veritiera. Le nostre parole devono essere di ravvedimento, devono riflettere Cristo e devono essere ripiene di Spirito Santo. Nessuno può domarla la lingua, è vero, nessun uomo può domare la lingua, ma lo Spirito Santo sì. E allora il segreto sta nel camminare con lo Spirito e non adempirete ai desideri della carne. Cammino con lo Spirito. Sottometto la mia lingua a Lui, mi riempio della Sua presenza, faccio sì che il mio cuore trabocchi della Sua presenza, dei Suoi pensieri, della Sua verità, e quello che la mia bocca dirà sarà una conseguenza. E ve lo dico quella che sarà la conseguenza: saranno parole di amore, di pace, di gioia, di bontà, di mansuetudine, di fede e di autocontrollo. Non sta a noi. Ci possiamo sforzare ed è giusto. È giusto che qualche volta ce la mordiamo la lingua. Ma quello che veramente funziona insieme al nostro sforzo è vivere con lo Spirito Santo. Parole di ravvedimento che riflettono Cristo e che sono ripiene dello Spirito Santo. Voglio concludere. Ve la ricordate la storia di Edison? Sembra passato tanto tempo fa. Ve la ricordate la storia di Edison? Leggo, suo figlio è un genio, la scuola non è buona abbastanza, sia lei la sua maestra. La storia continua così. Molti anni dopo la morte della madre, Edison divenne uno dei più grandi inventori del secolo. Mentre rovistava in un armadio, trovò la lettera ripiegata della sua maestra. La aprì e scoprì il vero messaggio che era scritto sulla lettera. Suo figlio ha un ritardo mentale. Suo figlio è deficiente. Non possiamo più permettergli di frequentare la nostra scuola. E quindi è stato espulso. Edison poi scrisse sul suo diario queste parole. Sono Thomas Alva Edison. Era un bambino con un ritardo mentale, un deficiente, che la madre ha trasformato nel genio del secolo. Le nostre parole sono potenti. E quindi io voglio incoraggiarci a ravvederci, a pentirci per tutte quelle frasi, aggettivi, dette con la rabbia, dette per stanchezza, dette perché a nostra volta siamo stati feriti, che hanno conferito scoraggiamento, morte, tarpato le ali, che hanno fatto sentire chi ci circonda un po' di meno, o molto meno, di chi. Dobbiamo ravvederci. Io invito tutti quanti noi a filtrare tutto quello che diciamo con il filtro di Gesù e a incominciare a dire le sue parole sagge, di guarigione, di libertà, come quelle che abbiamo detto prima. E invito tutti quanti noi a chiedere allo Spirito Santo di operare quello che è il miracolo che lui può fare, di cambiare il nostro cuore, affinché quello che da ora in poi esce dalla nostra bocca possa riflettere nostro Padre, piuttosto che la nostra natura ferita. Che dite? Possiamo fare un lavoro migliore di quello che stiamo facendo? Il nostro come te passa dalla nostra lingua. E lo Spirito Santo ci aiuta in questo. Ci aiuta a creare delle realtà migliori. Alziamoci. Andiamo a alzare le nostre mani in segno proprio di arresa, di ravvedimento. E preghiamo insieme. Non faccio un invito perché, sapete, tutti quanti noi siamo chiamati in causa. E tutti quanti noi abbiamo la possibilità di diventare un poco più simili a Gesù, misurando e filtrando le nostre parole in base a chi Lui è. Signore Gesù, io ti chiedo perdono per tutte quelle parole, frasi che non ti rispecchiavano, non rispecchiavano la tua volontà e che fondamentalmente non ti hanno compiaciuto. Perdonami per tutte quelle parole che ho detto con leggerezza. Perdonami per quando ho espresso la mia opinione e invece potevo stare zitta. Quando ho espresso i miei pensieri, la mia giustizia, piuttosto che usare parole che riflettevano la tua giustizia, i tuoi pensieri, il tuo amore. Gesù, perdonaci. Ti chiedo, Gesù, di lavare i nostri cuori, di guarire i nostri cuori. Noi li arrendiamo a te e ti chiediamo che tu possa renderli nuovi, come solo tu puoi fare. Togli ogni senso di orgoglio, di rabbia, di ira, togli ogni peccato, togli ogni conseguenza di quello che abbiamo potuto subire, e che dal nostro cuore poi possa parlare la nostra bocca, come tu ci insegni. Spirito Santo, abbiamo bisogno di te. Abbiamo tanto bisogno di te, Spirito Santo. Riempi i nostri cuori del tuo frutto e che le nostre parole verso i nostri figli, i nostri mariti, mogli, i nostri genitori, in ognuna delle nostre sfere di influenza, possano essere parole buone che conferiscono grazia e delle quali tu ti compiaci, Gesù, che vogliamo essere come te, veramente. Convinci, Spirito Santo, continua a parlare e continua a operare nella vita di ognuno di noi. Nel nome tuo, Gesù, prego. Amen.